Europa 24. Buongiorno dalla redazione, buongiorno da Anna Migliorati. Missione crescita, con questo obiettivo è partita ieri la missione della Commissione europea per rilanciare i rapporti economici tra Europa e Russia. Oltre 120 tra imprenditori e rappresentanti di associazioni da 22 Stati membri, 3 giorni di incontri al massimo livello con il mondo politico-economico russo e un'attenzione particolare anche al turismo. A guidarla il vicepresidente della Commissione europea Antonio Tajani, partecipa alla missione Magda Antonioli, docente di politica economica e direttore del Master Economia e Turismo in Bocconi. La sentita per capire come sta andando Anna Marino. Il campo che segue è quello del turismo high end, quindi vuol dire dove c'è anche quello di lusso, di fascia alta, chiamiamolo di alta gamma o di fascia alta. In questo ambito, anche alla luce di alcune analisi che sono state fatte, il segmento è un segmento particolarmente rilevante, non più diciamo così di nicchia, perché riguarda sia un numero alto di turisti e soprattutto riguarda un alto valore economico, perché sono delle transazioni che lasciano insomma da una parte e dall'altra abbondante ritorno economico. La necessità è quella di formare gli operatori e rispondere all'ottica dell'offerta europea ad una maggior specializzazione, perché stiamo affrontando un nuovo mercato. L'appuntamento per fare il punto sul turismo sarà domani all'Ermitage di San Pietroburgo, dove verrà firmato un trattato ufficiale tra Europa e Russia. È già presente, questo bisogna incentivarlo. Questo di sicuro. Noi abbiamo appena fatto una ricerca, per esempio, su turisti russi presso la regione Lombardia, che se anche costituiscono una quota abbastanza bassa della percentuale del turismo generale, rappresentano dei più grossi potenziali in crescita e anche rivolta a varie sotto nicchie di mercato in ambito dei laghi piuttosto che così via, e da questo punto di vista dobbiamo investire. E mentre si cerca di rilanciare il rapporto con la Russia e con la Cina, i rapporti sono invece sempre più tesi sul fronte dei dazi, un'apertura potrebbe arrivare dall'India. New Delhi ha proposto di abbassare al 40% i dazi doganali sull'importazione di vino nel tentativo di sbloccare lo stallo con l'Unione Europea sull'accordo di libero scambio in discussione da 6 anni. Attualmente New Delhi applica una tassa di circa il 150% su vini e alcolici stranieri. Il dazio è fortemente criticato da Bruxelles, che chiede una riduzione al 30%. Libero scambio che venerdì a tarda sera ha subito una battuta d'arresto decisiva nei confronti degli Stati Uniti. Il motivo? Il braccio di ferro sulla cultura. Allora torniamo a capire cosa è successo e cosa ci attende. Ha vinto Parigi. Certo, la Commissione europea ha fatto in modo di trovare una soluzione di apparente compromesso che le consente di salvare la faccia. Ma la realtà è che la Francia è riuscita a imporre la sua linea sull'esclusione dei prodotti audiovisivi dal mandato negoziale del commissario De Gucht, che a questo punto può avviare le trattative con gli Stati Uniti in vista del più grande accordo di libero scambio mai realizzato tra due realtà che insieme rappresentano il 40% del commercio mondiale e 2/3 della ricerca. Non c'erano molti dubbi che sarebbe andata a finire così. Parigi ha sempre detto molto chiaramente che in caso contrario avrebbe messo il veto. La Commissione evidentemente non ci aveva creduto, è andata a vedere e ha scoperto che non era un bluff. A questo punto i ministri del commercio estero dei 27 non potevano che prenderne atto e trovare una via d'uscita, sia pure in extremis, alla vigilia del G8 in Irlanda del Nord e della visita di Obama a Berlino. Marco Mussanè, Radio 24 e Sole 24 Ore, Parigi. E oggi, come sentivamo anche in GR24, gli occhi sono puntati sul G8. Arrivato il presidente americano Obama, il tema sarà tra quelli discussi, almeno negli incontri a margine. I dati sul lavoro intanto: in Europa in aumento il costo del lavoro nella zona euro, più 1,6% nel primo trimestre del 2013. L'aumento più consistente in Romania ed Estonia, mentre scende in Slovenia, Spagna, Cipro e Portogallo. Sono Federico Taddia e oggi vi voglio segnalare il concorso multimediale I Migranti d'Europa, promosso dalla Commissione europea per creare un'opportunità di riflessione sul contributo che i migranti apportano oggi alla società in termini di vitalità economica, spirito imprenditoriale, idee nuove e anche la creazione di posti di lavoro. Il concorso è aperto agli studenti maggiorenni iscritti a scuole di grafica e comunicazione che dovranno creare un manifesto, una fotografia o un video che induca la discussione su questi temi. Le scuole i cui studenti si aggiudicheranno i primi premi nelle 3 categorie e il primo premio della votazione pubblica riceveranno una ricompensa di 10.000 euro ciascuna. Per saperne di più, www.migrantseurope.eu. Fate però in fretta perché c'è tempo solo fino al 21 giugno. Grazie come sempre a Federico Taddia. L'Europa vi aspetta dopo il GR delle 15. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.